No, stia seduto, che adesso ci divertiamo. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più e sei così romantica. Fumo blu, fumo blu, una nuvola è dentro tu. E poi, se un uomo sa di fumo, ma sì, è veramente un uomo. Io ti amerò finché vorrai, proprio perché sei così. Un uomo quando sa di fumo. Ratata, un uomo quando sa di fumo. Ratata, e un bacio vale 10 dato da te. Lo so, non sei un divo, né l'artista, né l'eroe. Ma quando fumi c'entra di irresistibile. Fumo blu, fumo blu, una nuvola è dentro tu. E poi, se un uomo sa di fumo, ma sì, sei veramente un uomo? Io ti amerò finché vorrai, proprio perché sei così. Grazie.